Ma a me mi pare una vicenda abbastanza significativa del clima politico che stiamo vivendo purtroppo da qualche anno oramai. E devo dire innanzitutto che esprimo la mia più grande solidarietà a Mimmo, che comunque questa vicenda deve essere letta dentro un meccanismo politico, nel senso che al di là di quello che può dire la magistratura, io conoscendo l'esperienza di Riace posso affermare tranquillamente che in qualche modo mi pare che ci sia una sproporzione rispetto addirittura agli arresti domiciliari e a questo reato rispetto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In realtà a me sembra che ci troviamo dentro la stessa, fatti dovuti paragoni, la stessa dinamica che ha coinvolto le ONG, e cioè chi è che dimostra che attraverso la solidarietà si possono produrre oggi degli elementi significativi di un modello di accoglienza che in qualche modo mette in difficoltà il clima d'emergenza, perché dimostra quanto è semplice, quanto anche dal punto di vista economico, no? Noi riusciamo con poche risorse a garantire diritti a delle persone che poi migliorano anche il contesto sociale. Ecco, questo tipo di idea, questo tipo di pratica viene colpito perché rappresenta un esempio. Se ci pensiamo bene, la stessa cosa è successa con le ONG. Si sono mossi contro di loro mari e monti, tutti i processi avviati si sono poi tramutati in buchi nell'acqua, perché non stava in piedi quest'idea che le ONG fossero legate alla dimensione, del traffico di esseri umani, e però hanno cambiato il volto della frontiera, tant'è che drammaticamente questo tipo di messaggio, questo tipo di azioni poi hanno degli effetti concreti, non tanto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista concreto dei processi. In questo momento io sono a Lampedusa, nel mare non ci sono più di fatto ONG, cioè l'unico veliero della Open Arms, e come i dati dimostrano, in questi mesi noi abbiamo avuto un incremento dei morti molto elevato, abbiamo 8,1 morti al giorno proprio per questo, perché hanno tolto le navi, le partenze continuano e la gente muore. Tu ti occupi anche di corridoi umanitari. Guardando questa vicenda più in generale, il problema è che, si parla di favoreggiamento di immigrazione clandestina, ma l'immigrazione legale non è consentita in Europa oggi. Questo è uno dei problemi principali. La maggior parte delle persone pensano che le frontiere siano aperte. In realtà le frontiere sono chiuse, e proprio per questo la gente prende sempre strade più rischiose, rischiando la vita, affidandosi a criminali, alla mafia e quant'altro, determinando quindi un clima d'emergenza continuo che costruisce su questo molto consenso da chi maneggia molto bene i media, ma che dal punto di vista concreto e dei costi è assolutamente inqualificabile, non so come dirlo altrimenti. Tutti i processi che in qualche modo provano a sperimentare forme diverse sia nell'accoglienza, che tentano anche di aprire una questione rispetto alla gestione della frontiera, vengono in qualche modo gettati dentro un meccanismo mediatico che trasforma la solidarietà in reato. E banalmente io penso che questo avviene perché oggi viviamo in un mondo in cui essere poveri è una colpa, e sostanzialmente cancella questo sistema la miseria dallo sguardo pubblico. È come se gli impoveriti non debbano non solo avere diritti, ma non debbano avere nemmeno una rappresentazione simbolica. E secondo me c'è una certa continuità fra chi caccia dal centro i poveri, dal centro delle città i poveri, e chi in qualche modo poi legittima i lager in Libia. In qualche modo, in uno dei miei disegni ho disegnato una serie di migranti che vengono sommersi da un muro di filo spinato, e il disegno si chiama "L'importante che non si veda". Ecco, a me pare che ci sia questo oggi, in termini generali, cioè il tentativo di cancellare le forme della solidarietà verso le persone migranti e al tempo stesso i migranti stessi. E allora ti faccio un'ultima domanda: di fronte a questa situazione, si può, si deve disobbedire alle leggi? Di fronte a una situazione di questo tipo bisogna avere la capacità e la lucidità di reagire in maniera efficace. Secondo me bisogna riporre al centro la solidarietà, che non è una questione buonista, come qualcuno dice. La solidarietà è fatta da persone coraggiose, perché volontariamente mettono il loro, si espongono senza diciamo fini secondari come qualcuno pensa, la solidarietà per tutti. Io sono uno che dice che il punto fondamentale è ragionare in termini di diritti e non di categorie. Oggi noi sostanzialmente stiamo perdendo tutti i diritti, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto all'accoglienza delle persone fragili. Ecco, chi oggi pensa che togliendo i diritti a qualcun altro ne costruisce per altri soggetti si sbaglia, perché questa è una non è una, come dire, dinamica che accresce i diritti per i più poveri, ma una dinamica generale che determina un impoverimento un po' per tutti, perché quando perdi un diritto lo perdono tutti. E questo di fronte a un mondo che cambia, si evolve secondo me in maniera sempre più drammatica, se pensiamo al cambiamento climatico, è uno dei punti su cui riflettere, perché oggi noi siamo dall'altra parte della frontiera, ma questo non vuol dire che tra una, due, tre generazioni, per come sta andando il pianeta, anche noi potremmo trovarci dall'altra parte della barricata, cosa che in qualche modo sta già avvenendo se consideriamo che centinaia di migliaia di italiani stanno lasciando il nostro paese per trovare un lavoro migliore.